Voci di piccola impresa, idee anticrisi. Speciale Startup. Le idee high-tech presentate a SMAU di Alessandra Tedesco. Sono 1227 le startup innovative in Italia. La prima fotografia del settore è stata fatta da un osservatorio creato ad hoc dal Politecnico di Milano e da Italia Startup, una sorta di consorzio del settore. Nel 2012 sono stati investiti complessivamente 112 milioni di euro in startup high-tech e per il 2013 si stimano investimenti per 110 milioni di euro. In particolare, il 70% degli investimenti è stato effettuato da investitori istituzionali, mentre il 30% è diviso fra business angels, family office e incubatori. La metà delle startup innovative si trova al nord, il 36% al centro e soltanto il 14% al sud. La regione che ha il record di startup è la Lombardia, seguita da Emilia-Romagna, Lazio, Veneto e Piemonte. Alcune delle startup particolarmente innovative sono state presentate a SMAU 2013, la fiera milanese dedicata alle nuove tecnologie, soprattutto a uso business. È il caso di Horticultural Knowledge, una startup nata a Bologna nel 2011, con 7 soci, tutti sotto i 40 anni, laureati e con dottorato in scienze e tecnologie agrarie. Con un capitale privato di 10.000 euro e con gli 80.000 euro ottenuti grazie a un bando della regione Emilia-Romagna, la Horticultural Knowledge ha messo a punto un sistema che, monitorando periodicamente il diametro di mele e pere, fa una previsione di rendimento degli alberi da frutta, come spiega uno dei soci, Marco Zibordi. Praticamente abbiamo questo sistema per cui possiamo prevedere la quantità di frutta prodotta con 2-3 mesi di anticipo, in modo tale da restituire al frutticoltore un'indicazione su quella che è la velocità di crescita del frutto e prendere eventuali provvedimenti per cercare di modificare un'eventuale situazione sballata, diciamo. Possiamo fare le misure direttamente in campo noi di quello che è il calibro dei frutti, oppure possiamo dare il nostro calibro che abbiamo sviluppato con, diciamo, secondo i nostri criteri, e è un calibro che misura e registra il dato, e possiamo lasciare questo calibro al frutticoltore e lui, in completa autonomia, può collezionare questi diametri, che sono di una cifra indicativa 200 per ettaro, all'interno del frutteto su piante scelte a caso. Quindi in un quarto d'ora lui può raccogliere i dati che gli servono per fare la previsione della velocità di crescita e anche della produzione totale. Noi utilizziamo questo parametro, appunto le dimensioni del frutto, per capire se esistono delle condizioni particolari patologiche che esulano, diciamo, dalla normale crescita, e utilizziamo questa velocità di crescita per dare consigli al frutticoltore ed eventualmente prendere provvedimenti per mantenere al top questo parametro, la velocità di crescita. In caso di crescita lenta, dunque, l'agricoltore può correre ai ripari con maggiore irrigazione o concime. Ma chi sono i clienti di questa startup? Ancora Marco Zibordi. Al momento copriamo circa 120 ettari nella zona che va dall'Emilia Romagna, ma anche abbiamo qualche azienda in Trentino, nella provincia di Cuneo, e credo saranno una cinquantina di clienti, diciamo. Siamo una realtà molto piccola, ma grazie anche ad aver vinto, diciamo, dei bandi regionali, abbiamo intenzione di espanderci, ad esempio utilizzare una parte di questi fondi per avere un server che elabori i dati direttamente dal frutticoltore e riesca a restituire in tempo reale, senza passare, diciamo, da noi, riesca a restituire al frutticoltore quella che è la velocità di crescita e quindi le indicazioni su quello che può fare per migliorare la propria condizione. Speriamo nell'arco di 5 anni di essere completamente autosufficienti. Dall'agricoltura alla sanità con BioTechWare, startup di Torino creata da due soci, ingegneri informatici, con un capitale di 60.000 euro, fatto da fondi privati e da un mutuo. Altri 20.000 forniti da un business angel e con il supporto dell'incubatore per le imprese innovative del Politecnico di Torino. L'azienda dà anche lavoro a 4 dipendenti full time e a una serie di consulenti. La startup è nata il 14 febbraio 2011 e la data non è stata scelta a caso. Nel giorno di San Valentino è stata avviata un'azienda che crea uno strumento in grado di monitorare il funzionamento del cuore senza la presenza di un medico. CardioPad Pro permette infatti di fare un elettrocardiogramma in farmacia a un costo più contenuto per il paziente. come spiega uno dei soci, Alessandro Sappia. Il vantaggio per il cittadino è di accedere a questo tipo di esame nella farmacia più vicina, che è notoriamente dietro l'angolo, perché è molto diffuso, sono 18.000 le farmacie in Italia, contro un percorso che richiede spostamenti e perdite di tempo e liste d'attesa secondo il Servizio Sanitario Nazionale. I nostri clienti sono le farmacie, gli ambulatori di medicina di base, le associazioni, le cooperative per l'assistenza domiciliare integrata, tutte quelle entità professionali a carattere sanitario che hanno voglia di erogare servizi di natura professionale come l'elettrocardiogramma, ma che non possono tenersi in casa un cardiologo qualificato, che è una risorsa molto costosa. Abbiamo ottenuto l'abilitazione alla commercializzazione del dispositivo in questi giorni e siamo qui allo SMAU alla ricerca di distributori per supportare in modo più efficace la distribuzione di questo dispositivo. Il modello di business di BioTechWear è quello di andare a posizionare il dispositivo all'interno delle farmacie incomodato verso il farmacista e avere una revenue per ogni esame refertato da noi. L'aver sviluppato l'elettronica del dispositivo parallelamente all'hardware ci permette di avere un controllo molto stretto dell'utilizzo dei dispositivi, prevenendo anche, anticipando eventuali problematiche che può avere ogni singolo dispositivo da un lato, ma anche valutare e conteggiare economicamente l'utilizzo del dispositivo. Per BioTechWear il business plan è stato fatto nel 2011. È seguito il prototipo, quindi la commercializzazione. Il break-even è previsto per giugno 2014. Da Torino a Lucca per parlare della startup che ha vinto l'edizione 2013 della Start Cup Toscana. Si chiama Joss Technology ed è stata fondata da due soci sui 30 anni. 20.000 euro di capitali privati e 5.000 arrivati appunto dal premio Startup. Il sistema messo a punto si chiama JOS e consiste in un pannello capace di ricaricare cellulari, PC, tablet senza necessità di avere i singoli caricabatterie. Con il budget iniziale sono stati creati prototipi e brevetti. La socia Eleonora Romiti. JOS è un sistema di alimentazione e ricarica di qualsiasi tipo di utenza a bassissima tensione. E la nostra mission è eliminare la presenza di cavi invasiva, intricata, impossibile da gestire dai nostri luoghi di vita e di lavoro. Quindi è nato proprio con questo spirito. Il prodotto però si è rivelato essere efficacissimo perché permette appunto la ricarica e l'alimentazione di un numero praticamente illimitato di utenze, con una diversificazione fra le utenze che non viene poi erogata come servizio da nessun competitor, e ha un'altissima potenza, arriva a ricaricare anche i PC e quindi si è rivelato un sistema estremamente utile alla vita, all'utilizzo e alla gestione semplificata della tecnologia che utilizziamo quotidianamente. Noi abbiamo pensato a una versione iniziale del prodotto dedicato agli users, ossia tutti coloro che possiedono la tecnologia quotidianamente, che la usano come driver per le proprie relazioni, le proprie emozioni, quindi all'utente comune. Pensavamo di partire per l'appunto con questo tipo di mercato agli inizi di quest'anno, 2014, tramite una piattaforma e-commerce. La nostra vocazione però, forse la nostra ambizione, è quella di allargare nel giro di un paio d'anni l'azienda in quel settore che è il B2B, quindi attraverso partnership industriali, portarlo nell'impiantistica. Speriamo di poter arrivare presto a questo tipo di soluzione. Noi ci siamo abbiamo avuto questa performance del business plan e da calcoli un'azienda come la nostra che si rivolgesse il primo anno solo all'utente semplice fatturerebbe intorno al 500.000 di euro per il primo anno e dovrebbe incrementare in maniera positiva raggiungendo il punto del break even point, quindi del raggiungimento del pari entro i 3 anni, quindi siamo nella normalità. A Genova, due ingegneri, un informatico e uno elettronico, hanno creato nel 2012 la Sesamo con un capitale privato di 10.000 euro. Hanno partecipato a un bando del Comune di Genova che chiedeva soluzioni innovative per contrastare le truffe a domicilio, una vera piaga per le persone anziane. e così è stato messo a punto Sesamo System, come spiega uno dei soci, Marco Ghio. È uno spioncino digitale che viene installato in maniera molto semplice sulla propria porta di casa. Si smonta il vecchio spioncino e si monta il nuovo spioncino Sesamo System, e una volta che viene montato questo spioncino è del tutto autonomo, non necessita né di alimentazione né di manutenzione, e dialoga con delle chiavi che vengono distribuite ai parenti, amici e alle aziende che sono preposte alle visite domiciliari. E queste chiavi si interfacciano appunto con lo spioncino Sesamo System sulla parte esterna della porta, quindi non vi è necessità né di aprire la porta né tantomeno di interloquire con la persona interna, e se queste chiavi combaciano con gli algoritmi e i codici presenti all'interno dello spioncino fanno accendere molto semplicemente una luce e un suono, quindi anche per le persone che hanno problemi di vista o problemi di udito lo spioncino è molto semplice da capire, e il messaggio che noi vogliamo far passare è: apri solo se si accende la luce verde. Il sistema è piaciuto e il comune di Genova ha acquistato 300 spioncini distribuiti fra gli over 65 per una fase sperimentale di 6 mesi. Le chiavi con i codici per far apparire la luce verde sono state distribuite ai parenti, ma anche a 6 società che effettuano visite domiciliari. In questo modo, quando per esempio il tecnico del gas si presentava per un controllo, appoggiava la chiave allo spioncino e all'accendersi della luce verde l'anziano capiva che si trattava effettivamente di un tecnico e non di un impostore. Sesamo System arriverà sul mercato a dicembre e i soci contano di fare utili entro 2 anni.